Friuli nel mondo, 99esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canzoni friulane in musica. Vogliamo dedicarvi oggi, cari amici in ascolto, alcune composizioni friulane armonizzate per sola orchestra di giovani autori nostrani che hanno cercato di mantenersi, pur attraverso il ritmo moderno, il più possibile aderenti alle tradizioni canore del Friuli su testi di poeti friulani. Di Paroni e Someda ascoltate questo valzer lento dal titolo Un pipin. La Iu sul Mar è una slow di Sebastianotto e Politi. Thank you. Questo valzer dal titolo Mariutine è stato composto da Paroni su testo di Venier. Gli Sfantatis dal mio Bork è una canzone allegra di Burrai. Ascoltate inoltre questo vivace componimento dal titolo Gri Gri, musicato da Paroni su versi di Guido Michelutti. Thank you. Chiudiamo questa breve rassegna musicale con un brioso motivo intitolato Catine di Bruno Degano, eseguito dal complesso di Tony Kuberly, con l'augurio vivissimo di felice anno nuovo. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 99esima trasmissione a cura di Ermete Pelizzari, arrangiamento ed orchestra del maestro Alberto Casamassima.